Pino, ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ritardato, adesso ti smerdo io perché è 3 giorni che sparli delle cazzate. Questo mi sembra un buon attacco quello di Steve, promette molto bene. È un po' di tempo che non chiamava Steve, signor Steve da Modena. No, aspetta, stai dicendo delle cose importanti. Il coglione Steve da Modena. Perché lo tratti così? Un giornalista di serie B. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogni, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Prendi gioco di me. Bella atmosfera. Uno, Barisone ha rotto il cazzo. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Barisone ha rotto il cazzo. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Andiamo pure. Voglio stare in good time. Pronto? Bella atmosfera. Pronto? Ti prego non mi uccidere il muta. Spettacolo di merda offerto dall'Italia. Il Parlamento vuoto, conigli e bigliacchi non sono andati al Parlamento. Mentre noi siamo tutti in prima linea a rischiare. I vostri culi flaccidi li metterete in quelle sedie di merda del Parlamento quando dovete aumentare le tasse. Vi siete cagati di sopra. L'atmosfera. Vi siete cagati di sopra. Ti prego non mi uccidere il muta. Vi siete cagati di sopra. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in casa. Questa è l'Italia, vigliacchi di merda, non potete dare nessuna lezione. E quando passerà sto coronavirus, poi ne facciamo 2 risate con qualche ministro del cazzo, appena mette qualche tassa. Intanto qua ONG in questo momento è meglio che non vengono. Ti prego non mi uccidere il muta. Lei non si preoccupi, è il miglior spot contro l'immigrazione. Ma anche gli italiani che stanno venendo a Messina, sentendo lei, rimangono a Milano o a Lodi. Sentendo lei, rimangono lì. Cioè lei è il miglior spot per non venire a Messina. Bene, tu sei Gottardo, tu sei una palla di grasso, informe e male odorante. E questo è anche giusto. Che fine. Vabbè, sei questo è anche essere vero, ormai, però non c'è. Ormai vengo insultato anche quando sto zitto. No, per carità. Vengo insultato anche quando taccio. Vedi, i matti alle volte però hanno dei momenti di lucidità anche i matti, vedi. Messo al mondo. Tu sei un inutile cazzo messo al mondo. Vi siete cagati di sopra. Vi siete cagati di sopra. Voglio stare in good time. Grazie Sharon. Andiamo avanti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale ma hai tanta paura? Cosa? Croce Lenzo! Quando? In collegamento da casa sua David Farenzo, applausi. Buonasera, amici. Applausi sempre qui dal bunker di Monterosa, il sottoscritto da Padova, dagli studi di Radio Caffè, l'uomo più odiato, apparentemente, Alberto Gottardo, eccolo qua. E da dove altro vuoi che faccia la radio se non dagli studi radiofonici? Sempre, sempre sarcastico, c'è sempre una polemica pronta, una polemica no, pronta. Nessuna polemica, la corte è in radio, tu sei in radio, chi fa radio seriamente sta in radio. E io sono a casa, e io sono tranquillo. Ma se uno casa vuole stare a casa, che stia a casa. Sì, certo. Ma la radio si può fare anche dalla casa. Siccome, sì, siccome il governo ha detto che le cose essenziali, se uno le può fare a casa. Esatto. Se Gottardo è un asset strategico essenziale di questo paese, chiaro, bisognerebbe diverso chiederlo a chi ci governa. È un asset forse strategico, non strategico e non essenziale. Sì, probabilmente per sì, è uno dei tanti matti, sai, mette allegria come Mauro D'Amato. È una persona che mette allegria, quindi in momenti allora, come ragazzi, questi può essere così. Io inizierei subito con una cosa. Disse dal divano di casa. Sì. No, ti manderò la foto. No, del divano no. In realtà no. Davanti al caminetto. Allora ragazzi, spento. Allora spento. Ragazzi, sì. Vi pare normale che sai, in questa situazione vi pare normale a voi due che battibeccate, che in questa situazione i sindacati ma non si può battibeccare con quell'ardo. Dai, che i sindacati senti l'odio, senti l'odio che monta. Vai Parenzo, vai. Che no, era bella la tua battuta sul caminetto, quella mi è piaciuta, no? È proprio in stile tuo, quella era bella. Va bene ragazzi, vi pare normale che i sindacati in questa situazione, i signori sindacati sì, proclamino lo sciopero? Adesso merda. Ragazzi, vi pare normale che proclamino lo sciopero, secondo voi? Che proclamino uno sciopero i sindacati in questa situazione? Perché non sono d'accordo su alcune chiusure del governo? Vi pare normale a voi? Parenzo, tu che sei sempre dalla parte dei sindacati, no, ma sentiamo, ti no, pare no, normale? No, ma sentiamo una persona autorevole. No, Porro, persona voglio autorevole, sentire prego. Porro, no, basta polemica adesso, dopo dai, Porro, dai. So che la gente si diverte, anche la corte si diverte a sentirvi battibeccare, si diverte come un pazzo, però calma, dai. Tra poco ci sono le macerie peggiori rispetto a quella di una guerra, lo scriveva qualcuno oggi su un giornale, durante le guerre le fabbriche continuano a funzionare anche di più. Qua, durante questa guerra, non stanno funzionando le fabbriche. Anzi, sapete cosa succede? Succede che oggi io mi leggo Landini che dice il mercato da solo non va da nessuna parte. Ritornano i bolscevichi. E poi Landini che in questo momento cosa dice? Facciamo lo sciopero! Ciao! Aspettate un attimo che sta parlando Conte, un attimo. Rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità che viene assicurato da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Infine, a livello sanzionatorio, è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo, quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. Voglio precisarlo, io sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo in essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento verifica, perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Faccio un'ultima precisazione, perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto alla indebita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione e di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato il Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti e abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita, perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori, perché è il momento in cui tutti quanti, io stesso, ma credo ognuno di voi, sta riflettendo anche su quel che ha fatto, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa è l'occasione per fermarsi a fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare, perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico, e da questo punto di vista oggi in queste giornate, ahimè, purtroppo abbiamo più tempo per riflettere. Io credo davvero che ne approfitteremo anche per trarne il giusto insegnamento. Se ne poteva fare a meno. La parola quindi ai giornalisti che sono collegati in videoconferenza. Oh, non so se vi sentite più tranquillizzati da questa cosa qui, perché c'era stata la cosa del 30 euro. Gottardo che ne sa. Dai, ragazzi, però basta, vi prego, dai, basta, vi prego. No, è una persona informata, basta. Allora, ha precisato Conte questa cosa del 31 luglio, cioè perché oggi oggettivamente qualcuno ha parlato del 31 luglio, c'era scritto anche il 31 luglio. Non vuol dire che vivremo così. Non fino vuol al 31 dire luglio. Niente, però adesso, quest'ultima cosa della riflessione su noi stessi, sulla nostra vita, uno sinceramente ne avremmo fatto a meno. Non è ti che, senti migliore? Dice che ne usciremo migliori. Esatto, non è che in questo, ti senti migliore tu, Giuseppe? Ma no, adesso ancora è passato poco tempo. Impari a conoscere le persone, però è un'occasione che ti insegna a conoscere le persone che ti stanno intorno. Fermi là. Meno male, Giuseppe, avevo preso un etto d'erba poi i giorni prima del lockdown. So salvo. Da Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Oh, i sindacati vogliono scioperare. Ma porca puttana. puttana, ma che cazzo ci avete nel cervello? Le pigne secche. Allora ragazzi, mi tagliate innanzitutto questo pezzo di Conte in cui dice: beh, questo potrebbe essere un periodo opportuno per riflettere su noi stessi. Beh, sì. Per riflettere sulla vita. È veramente una parte comica. Qualcuno mi suggerisce la parte casaliniana, diciamo, di Casalino, che è il portavoce di questa roba qui. È una roba ridicola. Quindi dai, invita a fare yoga. Ma come cazzo si fa a finire una roba dicendo che è un periodo che ci può aiutare a riflettere? La gente è terrorizzata, cioè la gente è barricata, incazzata, c'è gente addirittura che sbrocca, comincia a sbroccare. Hai visto quell'immagine vicino Montesilvano, non so, vicino Pescara, di quello che a un certo punto viene rimproverato dal palazzo, dalla vicina di casa, perché è andato a correre. Prende una delazione del palazzo. No, certo. Ma prende non so che cosa, una mazza, un martello e gli sfascia la macchina. Cioè gli sfascia la macchina a martellate, cioè la gente sta già sbroccando, e quello, il presidente del consiglio, dice: beh sì, potrebbe essere un periodo passato per riflettere su noi stessi. Ma la cosa è incredibile. Poi scusate, avete sentito prima i dati della protezione civile, no? Del capo della protezione civile Borrelli. Ma uno come fa a credere? Giustamente uno gliel'ha chiesto a un certo punto. Come fai tu a credere ai dati quando lo stesso signore che dà i dati ogni giorno, grande rispetto per carità del capo della protezione civile, oggi in un'intervista dice che sono tutti finti, che non è vero, che probabilmente dici che potenzialmente sono 600.000, ho capito, sono 10 volte di più, ma ho capito, ma uno che cosa non li può calcolare, ma uno che cosa ci va a fare, ma uno che cosa ci va a fare a sentire questi dati? No, che... ma ha spiegato perché, sì, dice: noi diamo quelli di cui siamo certi, ma ho capito, ma evidentemente sono tutti finti, allora questi dati qua non sono veri, no, quelli sono reali. Sì, no, ho capito, ma non sono veri. Non è neanche un campione statistico. Ma appunto, non è niente. Non potrebbero essere 600.000. Ho capito. 600.000. Come sostenuto da me fin dall'inizio, quei dati non dicono un cazzo. Come sostenuto da me. Sì. Strano che Borrelli non si sia, come dire, non ti abbia come punto di riferimento. Allora, intanto il professor Galli, uno dei massimi esperti in questo periodo, sentiti da tutti, dice che gli extracomunitari... No, come Galli? Aspetta, c'è Gottardo, no? C'è Galli, Gottardo, come Mauro, da me c'è Gottardo che Galli sa come... dice, ossessionato, Galli dice che gli africani, non ci sono africani nei reparti e che è possibile che siano immuni. Una cosa abbastanza incredibile. Ma non può aver detto una roba del genere. Come no? Senti, come no? Ma no. Questo ti suggerisce che questa ipotesi sul fatto che la porta d'ingresso del virus sia diversa e non accogliente in determinate etnie possa stare in piedi. Asiatici ed europei hanno porte aperte. Mi auguro, ma con tutto il cuore, che si confermi il fatto che gli africani ce le hanno chiuse o semichiuse. C'è una diversa disponibilità e diverse caratteristiche dei recettori per il virus in alcune etnie, in alcune popolazioni, soprattutto di origine africana. Non abbiamo persone di origine africana nei nostri reparti, se non forse in minima misura. Ragazzi, questo ha detto, c'è poco da fare, è così. Sì, per fortuna, gli risponde Burioni, che dice: vieni al San Raffaele a vedere che ci sono anche... Ho capito, adesso non so se gli ha risposto, come gli ha risposto. Gli ha risposto, grazie a Dio gli ha risposto, ma è la logica che dovrebbe rispondere. Beh, perché la logica? Che ne sai? Cioè, perché non c'è nessuna malattia a cui uno è immune, no? In base alla provenienza geografica. In base alla provenienza geografica, no, che ne ce ne sono pochissime. Ci sono delle mutazioni, tipo l'anemia mediterranea. Che ne sappiamo di questo? Scusa, il biologo. Sì. Il biologo Gottardo. No, allora, io, a differenza tua, ho studiato. Abbiamo studiato lo stesso liceo. Non hai studiato un cazzo, probabilmente, di biologia. Io ho studiato. Ci sono delle mutazioni genetiche. Ragazzi, posso fare un applauso a una coppia? Adesso hanno violato la legge, per carità, però la gente sta cominciando a sbroccare. Io sono uno Tu ti rendi conto, Gottardo che commenta Galli. Su. Mi fate fare la trasmissione, perché sennò diventa sennò litigate tutto il tempo. Uno ha il diritto di dire che è una puttanata quella di Galli. Certo, ma mi fa ridere. Spiegando, mi fa ridere, lui dice: io l'ho studiato al liceo. E stavo spiegando l'anemia falciforme, che tu non sai neanche cos'è. Allora, a Napoli hanno beccato due amanti che fanno sassi in un'automobile a Qualiano. Due amanti di Qualiano sono stati denunciati dai carabinieri. Erano usciti di casa per appartarsi in macchina a fare sesso in una zona frequentata da coppiette. Ora, bravi. Io dico una cosa, ragazzi, la gente sta cominciando a sbroccare. Non do ragione a questi perché devono resistere. Poveretti, e ogni giorno, qualche personaggio che noi invitiamo ci dà anche dei consigli sulla masturbazione, eccetera, eccetera. Però a un certo punto uno scoppia. Questi dopo qua due si vole... settimane. Uno scoppia. Si volevano vedere, hanno cominciato a trombare, dai. Il Faina, il signor Faina. Anche perché c'è il problema del seme ritenuto, Giuseppe, che è un problema. Il seme ritenuto, drammatico. Sì, è vero. Sì. Ti fa sbroccare il seme ritenuto di solito. Il Faina. Pure al supermercato! Grattate, minimo ad alzati i prezzi del 30%. Voi dovete fa schifo quando camminate. Vi auguro un anno di cagarella a merda che va approfittate delle sofferenze della gente. Adesso non lo so, Faina, caro Faina, amico mio, se effettivamente i supermercati hanno aumentato i prezzi. Tu lo denunzi, non so in base a che cosa. Poi se la piglia con Zingaretti, sentiamo ancora il Faina. Il Faina, caro Parenzo, il Faina. Sebastico. Cina c'è sta aiuta, l'Egitto c'è sta aiuta, Cuba c'è sta aiuta, la Russia c'è sta aiuta. Zingaretti che dice senza Europa non ce l'avremmo mai fatta. A Zingare, Silvino onore, Giluva magna della chicchi, compa. Poi dice di stare con Cateno De Luca. Quegli imbecilli che stanno andando di corsa in Sicilia, le file chilometriche manco fosse Ferragosto. Ma che ci avete dentro al cervello, i Pokémon? Non vado a muove! Grande il sindaco di Messina, sono con te. Comunque ragazzi, io penso ancora al periodo di meditazione. C'è un capo del governo che parla di periodo di meditazione per gli italiani. Ma come cazzo si fa? Dai, su! Come cazzo si fa? Al di là di tutto, per carità. Però ragazzi, il periodo di meditazione sulla nostra vita, la gente sta sbroccando e quello parla di periodo di meditazione. Sono le nuove brioche. Giuseppe da Verona, avanti. Sono le brioche di Maria Antonietta. Questo è Michele Caruso. Coglione di Michele Caruso, ancora, dimmi. Ascolta, caro. Ma caro, un cazzo, l'altro giorno... Vabbè, fammi un attimo parlare però, altrimenti se non argomento. Sto tra un padovano, un milanese e un romano, l'alter ego da Crotone. Allora, l'altro giorno, in Radio Patina Libera, ho fatto quel che ho fatto, va bene? Forse esagerato. Hai detto che vuoi la morte di quelli del nord. Aspetta un attimo. Per coronavirus. Radio Patina Libera, Sani Valini e gli altri, laddove si asserisce che non ci sono filtri, non ci sono censure, mi hanno imbavagliato, hanno posto il veto perché non vogliono che io parli. Ma devono imbavagliarti quelli della psichiatria. Domani, Caruso. Fammi parlare con te, poi loro dicono quello che vogliono, che è l'unico di cui mi possa fidare. Allora, preoccupati, Cruciani, ti si fida di te, Michele Caruso muori. Va bene, domani è il Dante Day, si festeggia il padre della lingua Dante Alighieri. Vabbè, ma che vuoi, Michele Caruso, che vuoi? Parlava della legge del contrappasso, c'è effetto boomerang, tutto torna indietro. Ma è vero che sei intervenuto, su Radio Vaticana? Radio Maria. Adesso ti dico, sì, Radio Maria, sì. Pure Radio Maria sei arrivato. Ci hanno dato dei terroni, se adesso il diavolo l'inforca, vorrei dire, tra le chiamie imperine a quelli del nord, non ci posso fare niente, al sud non li vogliono. Se a Radio Maria, voi fate ogni tanto sentire il blog di Don Livio, io ho parlato di omosessualità, ho dato della poco di buona Roberta e ho fatto pure un interrogativo. Ho chiesto... Ma non ti hanno riconosciuto? Madonna... Non ti hanno riconosciuto? No, fatela pure voi questa domanda, se magari avete modo di parlare con Don Livio. Se la Madonna è vergine, illibata... No, non facciamo queste cose qua, no. Michele Caruso, ogni volta fai del casino pazzesco. Tu hai detto una cosa vergognosa l'altro giorno, hai detto quelli del nord si stanno meritando tutto. Perché hai detto questa puttanata, Michele Caruso? Perché l'hai detta? Per volere di Dio. Ma perché l'hai detta questa puttanata, questa del nord, quelli del nord che meritano di morire? Perché hai detto questo? Perché sei matto? Perché sei matto? Perché sei matto da rinchiudere? Sei pazzo da rinchiudere? Si sta realizzando, capito? Perché quelli del nord verso quelli del sud hanno sempre avuto del razzismo e adesso al contrario, perché devono morire, certo. Devono veramente ammorbati, devono tra le fiamme inferine. Il secondo gigante della serata è la legge del contrappasso dantesca. Ma vaffanculo, Michele Caru. Ciao. Fermo là. Mi sembra che c'è Conte che è sulla meditazione. Ce l'abbiamo Conte sulla meditazione? Non ce l'abbiamo. Fermi tutti. Allora, Giancarlo da Siena, fermi tutti. Giancarlo da Siena, calma. Giancarlo, dimmi. Giancarlo. Pronto, buonasera. Dimmi, buonasera a tutti. Dimmi, Giancarlo. Se mi ascoltate, sono in macchina, cerco di Germania. Allora, perché stai in macchina, innanzitutto? Perché stai in macchina? Perché mi sto spostando, adesso provo a bloccare, provo a fermarmi.

prima o poi vi spaccheremo il culo. Tu sei una pezza di merda, infame di merda, che non sei altro. Pezzo di merda infame, noi stiamo ancora lavorando, si hanno chiuso tutto, mensa, spogliatoio, la gente si cambia sul parcheggio delle macchine, cazzo, la gente va a mangiarsi il panino in macchina, ma che cazzo dici? Che cazzo stai dicendo? Pezzo di merda infame di merda che non sei altro, è così che si deve andare avanti, cazzo, così dobbiamo andare avanti, pezzo di merda infame che non sei altro, pezzo di merda. Tu e industriali siete tutti dei pezzi di merda che non sei altro. C'è pure altro, l'ho sentito Paco, Davide, c'è Pacone da Belluno, ma ti rendi conto o no? Una cosa, la spada di fuoco. Bisogna dire una cosa molto semplice, che è solo questa: se un'azienda non rispetta l'accordo sulla sicurezza, il prefetto la deve chiudere, fine. Sì, ma quello è normale, ma che banalità, ma nessuno dice il contrario. Ma ti rendi conto di quello che dice Pacone da Belluno? Cioè, spada di fuoco. Cioè, ma che cosa vuole? Beh, lo sciopero secondo me è sbagliato. Ma lui dice che lavora in condizioni terribili, si deve cambiare del parcheggio, deve mangiare in macchina. Io mi riferisco a quello che lui ha detto. Lui dice che deve mangiare in macchina il panino. Quello dice Pacone. Ma che vuol dire mangiare in macchina il panino? Perché le mense sono chiuse. Ma c'è una marea di gente che mangia il panino in macchina. Ma che vuol dire? Pure io mangio il panino qua. Si deve cambiare. Vabbè, tu però mangi il panino lì, potresti mangiartelo a casa. La situazione è diversa. Ma uno il panino in macchina o il panino da qualche altra parte, e sì, non so. Beh, cosa se si deve quello. Cambiare, non c'è la condizione per cambiare. Ma non lo so, non la conosco la condizione di Paco da Belluno, non la conosco, ma non può dire così, dai, ancora, ce n'è ancora. L'unica cosa che vi interessa sono i soldi, non la salute dei lavoratori, cazzo. Questo l'unica grave, cosa che vi interessa sono solo i soldi, pezzi di merda che non sei altro, infame di merda. Tu non hai, tu non ti vergogni, cazzo. Cruciani, tu non hai vergogna, cazzo. Tu, ma Dio, vabbè. Come mai sempre in culo e operai? Prima o poi vi spaccheremo il culo. Tu sei una pezza di merda, infame di merda che non sei altro. La roba incredibile, incredibile. Però la canzoncina non faceva così. Evidentemente Paco da Belluno non ha approfittato di questo periodo per riflettere sui nostri stili di vita, per uscirne anche migliori, come dice il presidente Conte. Guardate che è incredibile, c'è il presidente del Consiglio che a un certo punto, certo, prima delle domande dei giornalisti, del cognac. No, questo dice, non era sorseggiato il cognac. No, ma quasi, sembrava rilassatissimo. Beh, a dire ma insomma, abbiamo più tempo per fare dello yoga, per esempio. Per riflettere sul nostro stile di vita, ragazzi, questa è una cazzata, dai, su. No, il presidente del Consiglio fa delle comunicazioni, risponde i giornalisti, punto, non è che si deve filosofia. Ma in fin dei conti, certo, possiamo riflettere sul nostro stile di vita. Oh, non, ma c'è gente incazzata. C'è gente incazzata nera. Coltivate Manuel da Milano. Manuel da Milano, uno di questi, mi risulta da quello che leggo scritto qui, imprenditore, ha delle cambiali da pagare. Avanti, Manuel, dovremmo dare sfogo a tutta questa gente, ragazzi, incazzata. Più di quello che facciamo di solito, più di quello che facciamo, Manuel. E voi battibeccate insieme, dai, su, Manuel. 23 anni e sono imprenditore da 5 di un'impresa di ristrutturazione. Quest'anno ce l'avevo fatta. Quest'anno veramente, non sto scherzando, ce l'avevo fatta. Avevo investito gennaio e febbraio preventivi su preventivi. Ad aprile, non sto scherzando, dovevo iniziare a ristrutturare 10 bagni, dovevo finire 2 ristrutturazioni. Mi sono slittati, non sto scherzando, più di 20.000 euro di pagamenti. Adesso io a fine mese ho 6.000 euro di cambiali da pagare e i soldi che me li dà il presidente, che mi dice che devo meditare. No, tu medita, stai a casa e come dice Conte, approfitta per meditare. Meditare e incazzarti ancora di più, al limite, dai. Io cinque anni mi sono rotto il culo, sacrifici, per poi cosa? Però non è colpa di Conte, diciamo, questo però non è colpa di nessuno. Il virus non l'ha portato Conte, diciamo, precisiamo questa cosa qua. Detto questo, Manuel, spero che qualcuno ti aiuti, naturalmente, perché anche chi investe, anche chi è a partita IVA, dovrebbe essere aiutato molto di più di quello che è stato fatto fino adesso. Io non ce l'ho con Conte. Io ce l'ho quando dice questa cosa della meditazione. Lì mi incazzo, però quando dice, al di là delle responsabilità. Concrete, vabbè, Manuel, però dai, adesso aspettiamo i soldi che verranno. per adesso sono pochi. Però meditare, la meditazione durante questo periodo, il Presidente del Consiglio non lo deve dire, perché meditare, la gente non vuole stare a casa a meditare su se stessa, la gente vuole risposte, non il Presidente del Consiglio che dice, beh, un periodo buono per riflettere sul proprio stile di vita. Oh, ma la gente, molto meglio essere stressati piuttosto che avere questo stile di vita, ve lo dico, assolutamente. Francesco da Roma, dai Francesco. Oh caro, dimmi. Io volevo dire che qui è la gente che è malata. Io da amministratore oggi stavo per denunciare da amministratore di che cosa, scusa? Di condominio, perché si organizzano i pranzi a casa, cioè organizzano i pranzi fra condomini. Fra poco capito. La gente col cazzo che paga il condominio, te lo dico, cioè, te lo comunico, fra poco la gente col cazzo che pagherà pure le rate dei condomini. Tutto sospeso, tutto sospeso. E devi staccata, premesso che questo è il primo. Ma perché, che è successo? Spiegami, che è successo? Hanno organizzato una festa tra condomini, hanno organizzato una bracciata tra condomini. Ma dove? Dove? Dimmi, dammi i nomi subito. All'interno del condominio. Ma quale condominio? A Roma città? A Roma. A Roma, ma ragazzi, ma non saranno i primi e non saranno gli ultimi. Vabbè, non lo può dire l'amministratore del condominio, chiaramente. Però posso dirti una cosa, Francesco: non saranno i primi e non saranno gli ultimi. Sì, ma se ti pare normale che noi abbiamo un presidente che fa le dirette Facebook per fare le cose e poi manda i decreti alle 11 di sera? Che io vabbè, ma questo, ragazzi, questo è il meno. Questo dai. È un altro discorso. Cioè, questo è un altro discorso. No, guarda che è una cosa grave. I portieri la mattina mi hanno detto che non erano gravi, alle 11:30 di sera. Io ho dovuto chiamare tutti e dire andate a lavorare domani perché è una cosa essenziale. Ora tu mi devi dire come faccio a garantire io, perché io sono il responsabile, a dire al portiere stai a metro di distanza in una quartiera dove passa la gente a fare spesa. No, ma hai ragione, la cosa più grave mi sembra di capire, però al di là dell'incertezza che c'è, è quella che dici che in un tuo condominio hanno fatto un pranzo tra condomini, una specie di festa, diciamo. Fottendosene. Paolo da Pavia, grazie Francesco. Paolo Pavia, vai Paolo. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Sono un medico di terapia intensiva e sto andando a fare la notte. Dove? A Pavia? No, lavoro nel Basso Piemonte in zona rossa. Dimmi. E niente, volevo spiegare un po' com'è questa infezione. Dimmi. Allora io mi occupo di... Ecco, lo spieghi bene, perché qualcuno dice che è una semplice influenza anche in questa trasmissione. No, qualcuno l'ha sempre detto. Ma bravo. Paolo, bravo. Andiamo, non bravo, è una semplice influenza, perché mi occupo di ventilazione da più di 10 anni. Non abbiamo mai visto dei polmoni così, mai. Sono polmoni distrutti. Allora, sembra che siano polmoni quasi da intossicazione chimica. Non hanno pochissimi risultati alla terapia intensiva ventilatoria invasiva, pochissimi. La maggior parte purtroppo muore, la maggior parte. Di quelli che arrivano, in che condizioni? Ecco, è questo il non problema. Non ho capito, in terapia intensiva quante persone muoiono? Siamo su 100 ricoverati da te, quanti ne sono morti? 100 ricoverati, diciamo il 90%. Perché il problema è che è un'infezione che deve essere presa subito. Le disposizioni che hanno dato di stare a casa, di chiamare il medico di base e di curare la febbre a casa è una, posso dirlo, una grande stronzata. I risultati migliori li abbiamo ottenuti con la terapia precoce. Certo. Nel senso. Voglio sapere una cosa da te, Paolo, scusami, c'è una grande polemica in queste ore sulla cercando le origini del disastro, sull'impreparazione del personale medico a un evento di questo tipo. Hai avuto l'impressione? No, assolutamente. Noi non l'impreparazione singolare della persona singola, che non sono state del date sistema, del sistema, le istruzioni giuste, eccetera, eccetera. No, cioè, no, infatti, e molte persone sono andate anche in condizioni ci sono moltissimi infettati tra il personale medico, cosa che non c'è in nessun paese, questo è il punto. Esatto, perché all'inizio noi non eravamo stati informati sul tipo di gravità. E abbiamo avuto, io stesso, che ho fatto già 2 tamponi, ho trattato delle persone che non si sapevano fossero positivi. E ci siamo presentati in urgenza senza i presidi. No, lo vedi, cioè praticamente sei quasi un miracolato in questa situazione, se sei ancora negativo. Fermo là. La zanzara. Ma guarda, l'unica droga mia è la figa, Grugiani. Questa storia del coronavirus è una questione politica. Ho detto politica e dico ancora politica. Siete patetici. Voi con questo coronavirus siete patetici. Non ho ancora capito se ci fate o ci siete. Siete tre, tutti e tre patetici. Non me lo sarei mai aspettato. Sgarbi, non chiedere scusa a nessuno, perché tu sei l'unico che ha capito la verità. Non chiedere scusa a nessuno. Sei l'unico, unico, come sempre, che hai capito tutto. Eccolo! Quando? Eccoci. La famosa meditazione indicata dal Presidente del Consiglio. Due notizie: vicino Salerno, in giro senza giustificazione, donna dice di essere affetta da ninfomania. Sempre per la questione della meditazione. Altra cosa ancora: sull'autocertificazione scrive devo fumare una canna, fermato fuori casa e denunziato, Fratta Maggiore, Napoli. La meditazione del Presidente del Consiglio, incredibile. Intanto Cateno De Luca, tutta la mia solidarietà al sindaco di Messina, il quale si presenta ogni volta all'imbarcadero, così si dice, al punto di imbarco, anzi di sbarco, di quelli che vengono da Villa San Giovanni e si imbarcano per la Sicilia, per Messina, e che sono praticamente allo sbaraglio, perché c'è una fila interminabile, ci sono persone che non arrivano lì. Ma lì senza mascherina, va lì in mezzo a fare cacciara. Vabbè, senza ma che mascherina deve fare? Cioè anche lui, ma che deve dare un cattivo esempio. Ma no, adesso almeno non puoi attaccare esce. Cateno va così, lì dai. A far cacciare. No, mi dispiace perché effettivamente a vedere le immagini in televisione di lui che va... ma lì, almeno urla, è andato là, va benissimo. No, almeno ma... è andato là, sì, però, il sindaco. Ma essendo un amministratore pubblico dovrebbe avere ma che cambia lo smart working? Scusa, sì, il sindaco va lo smart working anche lui. Questa è bellissima, questa battuta è divertente. Cateno, vai, Cateno. Io mi metterò qua proprio di fronte dove si aprirà il portellone e non farò passare nessuno che mi vengano ad arrestare. Non farò passare nessuno. Oggi abbiamo beccato una Renault 4 che è partita dalla Francia, ha attraversato l'Italia indisturbata, era stata anche fermata nel Salernitano, è stata sanzionata, ha continuato a scendere ieri sera alle 22:20, proprio allo stesso orario del traghetto che noi ora bloccheremo, ha attraversato lo stretto, è indisturbata, è andata a finire ad Aci Trezza, dove si è ricongiunto con un altro gruppo, sono artisti di strada. Una Renault 4 scassata, piena di tutto e di più, e oggi li hanno messi in quarantena perché noi attraverso la polizia municipale li abbiamo seguiti e a quanto pare hanno pure ora violato la quarantena, pare che siano andati a fare acquisti in qualche supermercato. E allora quando le norme si fanno per non essere applicate, la gente invece sta murata in casa, quando vede queste cose si indigna, è ovvio che va di testa. time bomb chicken in my head. Tra poco farò l'ennesima ordinanza, perché comunque qua non è proprietaria mia, è del demanio, ma uscito da qua è strada comunale e faccio l'ordinanza dove non faccio passare più nessuno. E allora vediamo che cosa succede ora, visto che ancora non solo le norme di carta, non solo le soluzioni pratiche, ma veniamo anche accusati di essere dei mistificatori. Questa è supponenza, questo allora, è depistaggio di Stato, è una questione, è una questione importante. Allora io ora farò una lettera, annuncio un'ordinanza dove io impedisco che si passi in modo indiscriminato. Chi deve passare deve segnalare almeno 2 ore prima le motivazioni, le verifichiamo e si decide se si passa o non si passa. Stasera mi faccio arrestare per l'ennesima volta, non me ne frega niente, però basta con i provvedimenti e poi non si organizza sul territorio quelle, tutta la struttura per far rispettare questi provvedimenti. Allora ragazzi, alla fine c'ha ragione Cadeno De Luca, non è possibile che questi qua non abbiano certezze. Cioè Conte non dice nulla e Conte non dice nulla. Dai, su, meditare e meditare, passare il tempo. Però ci sono i prefetti che dovrebbero applicare le decreti del governo sul territorio. Dai, la spina dorsale del paese, dai. I prefetti. Beh, ma come mai tu ci insegni? L'hai mai conosciuto, come tu prefetto? Ci insegni? Aspetta, aspetta, che aspetta che se urli non ti sento bene, perché come sai sono da casa. I prefetti ce ne sono di bravissimi. Sul territorio eccellenza. E sono loro che dovrebbero applicare i decreti del governo. Ma dovrebbero cosa? Non ma sono per in favore. Grado, dai, non sono in grado. Valerio da Verona, vai. I prefetti non devono fare nulla. Vanno bene per darti un cavalierato i prefetti, dai. Valerio da Verona, dai, ha già ragione. I prefetti, di cosa cazzo parli? I prefetti, da quando ci sono, Valerio da Verona, sono dai. I rappresentanti del Ministero dell'Interno. Ragazzi, fatemi sentire Valerio, dai. Valerio, dimmi, dai. Ciao Giuseppe, ciao David, ciao Gottardo. Allora, vai, ascolta, vai. E hai presente quella profezia, quel libro di profezie di Silvia Browni, no? Sì, dove sì, è circolato sì, sulla sì. Rete? Allora, mi hanno mandato queste citazioni, questo passo di questo libro già 20 giorni fa sulle catastrofi, il 2020, eccetera, allora, eccetera. Io per curiosità, diciamo che il 2020 cercare... era anche un anno perfetto dal punto di vista numerico, diciamo, no? Cioè, esatto, non era così difficile così andare a scrivere 2020, però effettivamente in quel libro un passaggio abbastanza inquietante. Vabbè, allora io mi sono preso la briga per curiosità di cercare il testo originale, che lo trovi non solo su vari siti stranieri, ma anche sul sito della Mondadori riguardante il libro. E se tu lo leggi e lo traduci, mancano 2 frasi. Con 2 particolari precisissimi, uno si chiede: ma come ha fatto il traduttore a inventarseli, ad aggiungerli così? Perché la traduzione del testo inglese è: intorno al 2020 una grave malattia simile alla polmonite si diffonderà per tutto il mondo, attaccandosi ai polmoni e ai tubi bronchiali, resistendo a tutte le cure che si conoscono. Quasi più sconcertante della malattia in sé sarà il fatto che scomparirà all'improvviso, rapidamente come è arrivata, si ripresenterà 10 anni dopo e poi scomparirà. Vabbè, allora? Questo è il testo originale inglese. Quello italiano ha 2 frasi in più che sono: diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma, e poi la malattia provocherà un inverno di panico assoluto. Queste non ci sono nel testo originale. Come ha fatto il traduttore ad aggiungere? Non lo so, mi sembra una cazzata. Te lo do io la risposta. L'ha tradotto il mago Otelma. Sandro da Cremona, vai. Scusa, Valerio, ma sti cazzi di quel libro, però, sti grandissimi cazzi, che vuoi aggiungere, Valerio? Ti dico, io che faccio l'editore, quando ci sono dei tagli, avvengono in genere nella traduzione, cioè dall'originale. Non è può essere che l'originale sia arrivato, sia stato pubblicato con dei Sandro con da Cremona, tagli. Sandro da Cremona, vai Sandro. Sì, dimmi. Senti? Ti sì. Sento, dimmi. Sì, sì. Visto che avete preso una posizione ben netta verso tutti quelli che denunciano da parte dello Stato un abuso delle libertà che sono state levate. Ma quale sarebbe questo abuso di libertà? Non ho capito. Quale sarebbe? la circolazione di andare a trovare parenti. Ho capito, ma lei si rende conto in che situazione siamo o no? O ancora papà? Sì, sì, o mi, ancora... Mi lasci finire. Ma quale sarebbe questa privazione della libertà? La libertà in questo caso significa morte. La libertà in questo caso significa morte, può significare morte. E allora che cazzo? So di quale libertà parli? Pare che non piace. Ma non è la mia posizione. Non lo so qual è. D'accordo. Allora... Io posso però dire la mia. Dimmi, certo. Voglio farti una domanda per capire se effettivamente parli perché non sai delle cose o perché ti sta bene questo sistema. Ma qual è il sistema? Quale sistema? La domanda. Posso fare la domanda? Dimmi. Sei a conoscenza che sin dalla prima settimana, dopo che c'è stato Cotogno, università italiane, due famose università italiane, e in seguito sette aziende italiane farmaceutiche hanno sviluppato dei test che sono immediati. Su che cosa? Che possono dare la possibilità a l'ASL o gli operatori che fare uso di avere la possibilità di avere veramente chi sta con il virus addosso sta a casa, chi invece il virus non nascondono ce l'ha, i test e fa quello. Nascondono perché io ho test. La fortuna di lavorare, io ho la fortuna di lavorare ed è una fortuna perché ma anch'io casa, anch'io dunque tu vuoi no, che cosa vuoi dire con questa cosa qua voglio dire che è successo a me personalmente di avere colleghi e clienti che non sapendo di averlo sono usciti di casa per lavoro o anche per altre esigenze col virus addosso. Su questo non c'è dubbio. Allora se dobbiamo rimanere dentro casa e uscire quando ne abbiamo bisogno col virus addosso, ti rendi conto che è una cazzata? La cazzata è questa. Noi dobbiamo uscire solo se non abbiamo il virus addosso. E siccome, come ti ho detto, sette aziende italiane. Ma alcuni dicono anche, scusami Sandro, però alcuni dicono anche oggi dicono anche il contrario, che paradossalmente il grande pericolo è quello che si diffonda all'interno delle famiglie, nelle case, il virus. Lo diceva ieri sera. Se io dentro, che non ce l'ho e torno a casa che ce l'ho. Vabbè, ma io non ho capito. Tu sei partito dicendo che c'è la mancanza di libertà, dopodiché alla fine vai a parlare. C'è la mancanza di libertà per tutti, invece. Ci deve essere una roba seria. Ci sono sette aziende farmaceutiche, due università che hanno sviluppato un test rapido. Sì, rapido, sì il test che si col test usare per farlo a tutti, è economico e rapido. Va bene, ho capito. Alessandro da Torino, ho capito. Dimmi. Ciao Gru, shalom David. Dimmi. Intanto devo mandare a fanculo quel cornuto di Gottardo, perché non è possibile qua lui giorni fa ha detto: io a 43 anni non morirò mai di coronavirus. È molto improbabile, rimane molto improbabile. Stai zitto un attimo, è una probabilità teorica. Alessandro, guarda i numeri. Fermo un attimo, Alessandro, mettiti un attimo con l'auricolare o col viva voce. Ma togli tutto, dai, Alessandro, non mi rompere i coglioni perché non si sente niente. Dai. Sì, dai, forza. Allora, un'altra cosa poi per riscaldare un po', per raffreddare un po' gli animi. Tra i mille svantaggi del coronavirus, devo dire che mi sto facendo la doccia sempre meno, e questa è una cosa molto positiva perché mi rompe i coglioni. E poi ho scoperto, oltre più porn, sì, che però non mi soddisfa, ho scoperto la pratica del sexting, che devo dire è molto interessante. Vabbè Alessandro, hai scoperto adesso la pratica del sexting, oggi, nel 2020, e ti è servito essere in quarantena o rinchiuso dentro casa, c'è il sesso telefonico, ma di che parli? Di cosa stai parlando? Devo dire che le ragazze stanno spingendo sempre più in questo periodo. Ma per forza stanno a casa, ma che cazzo è? Dai, su. Cioè, che devono fare? Le persone che vogliono fare sesso via telefono è l'unico modo per farlo, dunque di che parli? Infatti, Gru, quando usciremo tutti, andiamo a scambiare. Vai, Francesco da Milano, non mi rompere i coglioni, vai, Francesco da Milano, un povero imbecille. Ciao. Francesco, dimmi. Ciao, io volevo solo dire, sono un operatore sanitario, lavoro in ospedale a Milano. Non ho incrociato mai una pattuglia in tutto questo periodo di quarantena, mai. Attraverso tre comuni per andare al lavoro faccio turni, quindi vado e torno in orari diversi, vari, quindi è variabile la situazione. Non ho mai incrociato una pattuglia e quindi non sono stato mai neanche fermato. Io comunque essere giustificato, però una persona che voleva passare comunque non sarebbe neanche stato controllato. Ma non lo so, Francesco, io penso che ci sono anche le telecamere per controllare se c'è qualcosa che non funziona, eh? Non è che ci vogliono solo le pattuglie. È evidente che poi ci sono delle postazioni anche all'interno delle questure, eccetera, eccetera, dove ci sono delle persone che con delle telecamere guardano quello che succede sul territorio. Perché altrimenti sarebbe la fine se non fosse così. Cioè, non è che ci sono però solamente. Io non ho molto tempo di seguire i telegiornali. Ieri ho acceso e dicevano esercito, polizia, non, vabbè, entra, capito, non, ma non possiamo avere la percezione noi guardando il nostro percorso. Certo, è strano che tu da dove vai, da dove parti e dove arrivi. Provincia di Milano, devo andare in ospedale a Milano, quindi percorro la tangenziale, la Milano Meda. Non hai mai visto una pattuglia? Mai incrociato. Non lo so. Vabbè, Riccardo da Rovigo, dai Riccardo. Ah, sto guardando qui Bertovaso in questo momento è nelle Marche. Questo qua è infetto a Milano, prende il suo nelle Marche. È positivo il coronavirus. Non lo so, penso che abbia... Visto che parliamo di gente che è irresponsabile, che gira per l'Italia nonostante i divieti, stiamo parlando di Bertolaso, mica uno qualsiasi. Ho capito Riccardo, però io non lo so, io penso che sia stato, come dire, il trasferimento nelle Marche di Bertolaso sia stato fatto in maniera da non danneggiare nessuno. Ho capito, ma ti rendi conto? Lui nella sua posizione scopre improvvisamente che è infetto, piglia su a Milano e va... E dove lo devono mettere? A San Vittore, poveretto, l'avrà trasferito con tutte le cartelle. No, lui sta dicendo un'altra cosa. No, non lo so perché a casa sua nelle Marche. Ma hai capito qual è il discorso che ti pongo? Ma ho capito il discorso che fai, però io non lo so, penso che si sia trasferito nelle Marche perché a casa sua. Guarda, io ho messo un post in Facebook, sai in quanti mi hanno risposto? Non ti dico cosa hanno detto di Bertolaso. Ma la gente su Facebook che cazzo vuole dire? No, perché era in visita nelle Marche. Sì, però era in visita nelle Marche. No, ma si occupa della probabilmente. No, ma si occupa anche della questione del coronavirus per la regione Marche. Sì, siccome era lì in visita e ha scoperto lì di essere positivo al coronavirus, è rimasto lì. Però a questo nostro ascoltatore va detto che se gli ha risposto più di 100.000 persone su Facebook, avviano una sperimentazione sul suo posto. Ciao Riccardo, ciao. Allora, Vittorio Sgarbi in collegamento da casa sua, Vittorio! Grande! Eccolo! Eccoci qui, combatti, grandissimo! Vittorio, combatti, non farti intimidire, Vittorio! Grazie. Beh, ma d'altra parte non ho nessun elemento, non ho nessuna autorità per parlare. Dico che mi sembra una cosa abbastanza logica che tutto quello che ci dà un segno di speranza, come il calo dei contagiati, e il fatto anche che i dati non siano buoni, in realtà ci indica, come forse vi ho già detto, che il virus è partito abbastanza presto, forse è partito in dicembre o gennaio, che quindi era bene chiudere prima le case perché questo effetto di distaccare le persone fosse efficace quando il contagio era debole. Oggi credo che gli attestati siano contagiati 1 su 4, 1 su 3, perché ho sentito 70.000 su 300.000 tamponi. Dice 600.000 oggi il capo della protezione civile sulle voci. I potenziali sono 600.000. Vabbè, insomma, che vuoi dire? Non ho capito che, per esempio, qualcuno sostiene oggi che Conte doveva chiudere prima perché. Sì, questo lo penso anch'io. Questo lo penso anch'io perché il decreto era il 31 gennaio. Ma al di là del fatto che in quel momento tutti erano su una posizione simile alla mia, cioè finirà presto, per l'altra parte è anche una legittima speranza. Io mi sono scusato di aver dato delle illusioni, ma erano soltanto quello. Dal punto di vista tecnico sono stato sostenuto da virologi che oggi sono messi sotto inchiesta, dei loro colleghi. Sì, qualcuno sostiene addirittura che non dovrebbero parlare come te, cioè non si deve parlare. L'altro giorno Pregliasco, che io ogni tanto vedo in qualche trasmissione in croce, ha detto tu non dovresti essere invitato, non ti dovrebbe essere consentito dire certe cose. Io questo qua, francamente, io posso anche essere in disaccordo con Vittorio Sgarbi o con, che ne so, con la Gismondo o con altre persone, ma il fatto che uno non lo possa dire è una follia. Ma vi rendete conto o no? È una follia. Cioè, non è vero che dovremmo essere tutti responsabili. Io sono stato. Sei stato irresponsabile, tu ammetti di essere stato saggio, Vittorio. Adesso sono stato insufficientemente preparato ad affrontare un tema come questo, che mi sembrava più piccolo di quanto non sia nelle proporzioni, ma l'altra sera per esempio è stato aggredito da tale Minichini, il povero Giletti, solo perché mi aveva invitato. Invitarmi è una cosa che non deve essere no, fatta. Questa è una follia, infatti questa è un'altra follia. Qualcuno, il tribunale dell'internet, il tribunale del politicamente corretto del giornalismo, sostiene che Sgarbi o altre persone non devono essere invitate a discutere del coronavirus. Sgarbi come Gian Giacomo Mora faranno la damnazio memoria di Sgarbi. Vabbè, insomma, siamo tranquilli, in realtà io... Ma Sgarbi ha già detto, io ho espresso un parere e non avevo titolo, questo è importantissimo, lo dica Vittorio, soltanto, è importantissimo. Sì, io non ho alcun titolo, posso soltanto fare valutazioni sui dati, cioè se 300.000 tamponi portano 70.000 contagiati, vuol dire che, come un grande sondaggio, è uno su tre, quindi potremmo essere, come dice la Gisbondo, il 70% di contagiati. Però scusami Vittorio, la cosa più interessante da capire da te è questa: un uomo dinamico come te che non sta mai a casa, tutti i giorni gira Piazza Armerina, Bergamo, Bergamo Alta, Brescia, che cosa fa tutto il giorno a casa? Come tenere una tigre in gabbia, ma tutto il giorno a casa però. Io avrei delle buone ragioni per uscire, ma essendo Sgarbi onesto sono sindaco di un paese in cui ho posto le condizioni per il bracconiare, non c'è un solo infettato a Sutri. E perché non sei andato là? Sarebbe stata la prima volta che facevi il sindaco negli ultimi anni. Ma da parte tutto si fa da remoto ormai, quindi non è che la lo smart work. Però potresti sindaco. Avere riscoperto il sesso con la tua compagna? No, nemmeno quello. No, perché quello non è un dato all'ordine del giorno. Insomma, è un dato ormai è un dato ormai superato. Cioè, è un dato superato. Nemmeno in questo caso, nemmeno in queste condizioni ritrovi il sesso con Sabrina. Incredibile. L'abbraccio fortissimo, ma nemmeno. Probabilmente nemmeno lei vuole, però. Nemmeno lei vuole. Ma siete a casa insieme o no? Non ce lo poniamo, non è un tema. Ma tra l'altro il sesso in una situazione di agitazione non è la cosa migliore. Questo è vero, questo è vero. Il cazzo non vuole pensieri. Il cazzo non vuole pensieri, è vero, sì. In questo... Ma infatti, secondo me, hai ragione tu, in questo periodo si scopa poco. Molti dicono, molti dicono che c'era riscoperta, dentro casa. No. Ma la gente è terrorizzata, il cazzo non ti... Beh, figuriamoci. Cioè... Scusami un attimo, Vittorio, ma questa storia dell'Avigan, perché non fai un test? Tu sei un grande... Prima ne abbiamo accennato e io sono assolutamente disponibile. Mi pare giusto che l'AIFA abbia ammesso il farmaco, mi pare abbastanza grottesco che Burioni dica guarda un po' scontro uno sconosciuto. Resta da capire perché i comportamenti in Giappone sono diversi nelle altre parti del mondo. È un dato, non lo so. Quindi se questo è determinato dal fatto che nelle prime fasi del contagio dare l'Avigan poteva consentire al 90%. Ma tu lo prenderesti se fosse disponibile oggi? Lo prenderei subito. Fai un test tu, sottoponiti, fai da capo. No, ha degli effetti collaterali pericolosi, però hanno detto, bisogna stare attenti, per questo stanno prudendo. Lo dice in realtà al momento, lo dice soltanto la stampa contraria a questo ragazzo. No, Vittorio, posso correggerti. Lo dice anche la casa produttrice, che si dice molto preoccupata dell'avvio di un'eventuale sperimentazione in Italia. La casa produttrice dell'Avigan. Persino loro sono preoccupati. Comunque, questa l'idea di stare fino al 31 luglio oggi un po' Conte eccetera dentro, diciamo, con le restrizioni, senza poter essere Sgarbi, perché Sgarbi è movimento continuo. Sgarbi è praticamente non può esistere uno Sgarbi immobile, cioè questo è vero, hai ragione. Sgarbi è movimento continuo, questo è il punto, con tutto il carrozzone. Peraltro una che andare a vedere le opere d'arte nei luoghi, e questa teoricamente potrei farlo. Cioè, ancora, ti manca più di una scopata, diciamo la verità. Andare a vedere le opere ti manca più del sesso. Le altre motivazioni sono: Parlamento è chiuso, e spettacoli sono stati sospesi o rimandati, conferenze non ci sono, per cui 3 su 4 delle motivazioni non ce l'ho più. Cioè, per cui posso anche studiare. Cioè, l'idea di stare fino al 31 luglio, cioè qualcuno dice, è una ragazzi, ma guarda che non è mica sarà così. L'ipotesi è stata fatta, ma anche negata dal primo ministro, resta il fatto che è probabile. Ma ti pare normale che Conte dice un periodo per meditazione serve per meditare? Ma che roba è? Ma adesso faccio io Sgarbi, ma che cazzo di roba è? Ma io non voglio stare a casa e meditare, ma che cazzo me ne frega di meditare? Sono molto più stressato di prima, che cazzo medito a casa? Ma dai, ho la fortuna di uscire e di venire alla radio, questo è il punto. Cioè, questo è le considerazioni polemiche che io faccio e che tu fai. sono in realtà difficili da sostenere oggi, perché siamo contro un mostro sconosciuto, cioè non abbiamo le armi per affrontarlo. È l'elemento tipico dell'angoscia, per cui il quadro che ho indicato più emblematico, comunque, l'urlo di Munch. L'urlo di Munch indica uno che urla, non si capisce perché, non è che gli sparano, non è che ha, non sa che cosa ha. Non sapere è molto più inquietante che sapere le ragioni di un pericolo. Comunque tu hai detto: non ero sufficientemente preparato ad affrontare l'argomento. Dunque, mea culpa, mea grandissima culpa. Questo è il punto. Esattamente, sì. Vabbè. Non ero preparato, ero stato depistato da persone che mi sembravano rassicuranti e capaci. Ciao, Vittorio. Ciao, ciao. Grazie, ciao. La zanzara. Oh no, la Muchina è finita. Ci penso io, va. Ecco Muchina. Già la usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire, voglio morire. La gente. Già la usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già la usavo, ma adesso di più. No. Già lo usavo. Mi sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Prince. Del 21 febbraio, Meluzzi che vi mette in guardia dal coronavirus e tre stronzi che lo prendono per il culo. Ora chiedetegli scusa stronzi, chiedetegli scusa stronzi. Stessa puntata, testa di cazzo, una dottoressa che vi dice di stare attenti e te la azzeggi, e te la azzeggi e la prendi pure per il culo, dicendogli: ah, ma sei anche medico, ah, ma sei anche medico. Fanculo, vai, stronzo. Tutte le puttanate che vi avete detto ve le rimando, tutte. Il cretino di Gottardo dice: è più facile farsi male in strada con la moto che contrarre il coronavirus. Che imbecilli anche lui, che imbecilli. Voi siete proprio tre moschettieri di cazzo. Bastardi. Parliamo di cose sensate, per favore. Bruciani, parliamo di cose sensate, per favore. Sono momenti importanti per il paese. Parliamo di cose importanti, per favore. Pronto? Pronto? Sì? Sì, con chi parlo? Biagi. Come, scusi? Biagi. Biagi? Sì. Sì. Mi ha chiamato, dimmi, dica. No, io non ho chiamato assolutamente. No, veramente ha chiamato lei? No. Come no? Ha chiamato lei assolutamente. Amico a mio. Lei? A chi? Scusa, qualcuno ha fatto squillare il telefono, sei tu che hai chiamato? No, è impossibile. Ma è possibile, ti dico che hai chiamato tu. Lei mi dica il numero e poi mi dice... Le dico se ho chiamato io, è impossibile, sto guardando una cosa su internet, è impossibile. Ma non fare il furbo, hai chiamato tu, è inutile che fai il furbo. Giuseppe da Barletta, vai Giuseppe da Barletta. Fin dall'inizio c'è stato un parapiglia assurdo tra Speranza, Zingaré. Aspetta. Mi senti? Aspetta un attimo. Ci sei? Pronto? Allora, tu hai detto Sgarbi testa di cazzo, giusto? Sì. Giusto? Ah, sei tu allora, sei tu. Sì, sì. Comodo adesso che il testa di cazzo di Sgarbi si caga sotto fare retromarcia. Allora... va messo in galera e tu, Cruciani, hai rotto il cazzo con la storia che tutti possono parlare. Sei una merda. Benissimo. Perché? Sei tu che l'hai scritto? Sì, l'ho scritto io. Sei scritto tu. Senti che voce affannata. Senti che voce. Sto facendo le scale. Stai facendo le scale. Dimmi la storia. Dimmi questa storia. Non ho capito perché. Ma non posso... scusa, Sgarbi. Ha spiegato. Non ho capito perché non posso invitare Sgarbi. Non ho capito. Perché? Cazzo, ma perché chi proprio di preparato? Ah, perché? Ti becco il preparato, no, sì. Perché ho fatto 8 piani di scale, non perché. Eh? Ho fatto 8 piani di scale, non perché sono preparato per risponderti, sono un attimo di fiatone. No, stavo dicendo, perché è normale, perché hai presentato per quello che ha detto in tutti questi giorni. Scusa, c'è mezzo paese che è scandalizzato, se inviti uno che comunque invita a fare tutto quello che ha invitato a fare, ha dileggiato chiunque. Ti sembra normale secondo te? Voglio dire, che assolutamente normale, assolutamente normale. Se ha commesso dei reati vada denunziato, ma non ho capito perché non può dire la sua. All'inizio diceva che il virus del cazzo, ha detto andate a Codogno, è semplicemente l'influenza. Poi bisogna di commentare. E che dobbiamo fare? E che dobbiamo fare? Impedirgli di parlare? Impedirgli di andare in televisione? Certo, va impedito di parlare. Certa gente gli va impedito di parlare. E magari messo in galera, no? Ma messo in galera, perché se lo facevo, se l'avessi fatto io, sarei stato denunciato, capito? Sarei ma quando mai? Momento. È pieno di gente su internet che dove, dice, parla dove? E dice ma è pieno di gente, non, è pieno di gente che dice non è un cazzo questa storia qui, eppure non è che viene preso e portato in galera o denunciato per procurato allarme. Vabbè, comunque guarda l'opinione pubblica, come si esprime, quello che pensano tutti quanti riguarda quella persona. Ah, il tribunale del popolo, l'opinione pubblica. Adesso facciamo decidere al popolo chi parla e chi no. Anche per te, vale, anche che te sei un altro di quelli, capito? Il tribunale, cioè, del secondo popolo. Te, il tribunale del popolo. Cioè, secondo te, alcune persone negare che il virus sia una cosa letale, diciamo, che sia una cosa tremenda, il dire. È normale, questa cosa qua, uno no, in questo momento qua non lo può dire. È pericoloso, su questo ha ragione. Dire uscite ho capito, pure, ma non anche c'è se nessun uno problema, dice uscite, questo è pericoloso. Anche se uno dice uscite, ma chi se ne frega? Poi c'è la responsabilità individuale. No, certo, se lo dice Gottardo non lo caga nessuno, lo diceva Sgarbi, sì, quello è il tema, la differenza. Una persona come Sgarbi abbi pazienza, ma non sono non cioè, ma secondo ragazzi Andrea. Ma non diciamo ma ha chiesto stronza. Scusa ma oggi, al di là di questo scusa, al di là di sbagliare questo conta sì, sì va bene al di là di questo dopo un anno, ma non per paura perché si è reso conto ma dai no ma che no non per quello non ha nessuna paura poco fa ha detto semplicemente che aveva sbagliato ha sbagliato le valutazioni ha ascoltato dei medici sbagliati lo ha detto chiaramente allora basta una scusa così dopo mesi e mesi dunque tu che cosa gli faresti aspetta voglio capire che cosa gli faresti tu cioè tu lo denunceresti lo porteresti davanti a un tribunale no ma per capire cioè secondo te va denunciato certo secondo me andrebbe denunciato voglio dire chiaramente bisogna vedere i riscontri voglio dire legali non li conosco però una persona così andrebbe comunque crea dei problemi altera comunque il pensiero delle persone per cui le può portare fuori da quello che è la logica. Siamo a discutere di cose che non sono da discutere in questo momento, perché si può discutere di miliardi di cose e ti vengo sempre dietro, io ti seguo da una vita, voglio dire, per l'amor del cielo, che mi piace la questione liberale e tutto il resto, ma questa, in questo caso qui di liberale non c'è un caso. No, allora, una cosa è la libertà di esprimere il proprio pensiero, sì, una cosa è attenersi alle leggi, una cosa è a una comunità enorme, no, no, io, ma, no. No, non è così, non è così. Ah, no, perché, non è così no dipende è così. Perché naturalmente uno può ma dire. Ma i cervelli delle persone come sono? Perché sono regolari i cervelli delle persone? No, non ho capito, sì. Non sono influenzabili. No, scusa, ma certo che sono tutti, sono influenzabili, che c'entra? Stiamo parlando di questo. Allora, incitare qualcuno, a parte, scusami, però non è che Sgarbi ha incitato qualcuno a uscire da casa, che è un'altra cosa. che è un'altra cosa. Ha sottovalutato tutto. Sai quante persone hanno sottovalutato tutto? Fior di virologi, le stesse persone che adesso gridano, che adesso sono lì a dirci, state attenti a tutto. E quell'altro suonato di Padova lì. Scusa, è evidente, no? Ma ti posso mandare in onda Conte del 27 gennaio? Conte del 27 gennaio? Anche Salvini, certo. E allora chiunque ha commesso degli errori, no? Il tempo ha cambiato le condizioni. Cioè, però col passare del tempo ci siamo resi conto che non aveva. Porre addirittura, voglio dire, il suo sapere, il suo tutto, la sua persona, la sua figura in una maniera veramente non democratica. Vabbè. Non è stata una discussione. Ciao, amico mio. Con Giuseppe da Barletta, dai Giuseppe, dimmi. Allora, senti, due cose veloci. Innanzitutto, secondo me c'è stata grande confusione nella gestione del governo. Infatti, come insomma si è potuto notare, se da un lato c'era Speranza che diceva delle cose, dall'altro abbiamo visto invece Zingaretti sottovalutare tutto. Quindi secondo me questo ha creato un clima di panico che si è riversato un po' su tutto. No, ma la cosa più grave è un'altra. All'inizio non c'era nessun panico. Il governo ha scritto il 31 gennaio, sì, con cosa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio, c'era una situazione, oggi è un po' questo uno degli argomenti di cui si discute, che c'era una situazione, diciamo, di emergenza nazionale. Dal 31 gennaio fino alla 23 di febbraio, quando è stato preso il primo provvedimento, ma che cazzo è stato fatto a livello di prevenzione negli ospedali o cose di questo tipo? Una benemerita mazza, questo è il punto Giuseppe. Fondamentale. Allora, il punto fondamentale è che molti, anche autorevoli giuristi oggi, dicono, non gente per forza contro il governo, eccetera. Dal 31 gennaio fino al 23 febbraio, quando era stata già proclamata, virgolette, l'emergenza nazionale, cosa è stato fatto? Nulla. Questo è il punto, dai. Ma aggiungo anche, guarda, ti dico, io faccio giurisprudenza, quindi ho finito gli esami di giurisprudenza, mi devo laureare. Allora, il discorso è un altro. Si parla di questi provvedimenti che in teoria dovrebbero limitare la libertà personale, perché se tu vuoi che una persona non esca di casa per il rischio, diciamo, onde evitare proprio di incadere in delle sanzioni, tu devi limitare la libertà personale, cioè devi dire semplicemente a questa gente: esci, ti arresto. Il problema grave qual è? Che questi decreti assunti da Conte... Non è che per forza uno ti arresta, ci sono le multe, oggi ne hanno annunciate altre, ci sono dei provvedimenti. Per carità, non sto dicendo di arrestare tutti che escono, non sto dicendo questo. Sto non dicendo c'è il coprifuoco, Non si... Sì, assolutamente. Sto dicendo Per me ci dovrebbe essere, ma comunque... Sto dicendo semplicemente questo, che purtroppo c'è stata una gestione proprio... di incompetenza, secondo me, con tutto il rispetto. Ma certo, ma assoluta, ragazzi, ma è chiaro che è una cosa completamente nuova. Ma che ci sia stata, soprattutto a livello di ospedali, di preparazione, capisci? Eccetera. Ma non c'è dubbio, ragazzi, questo è sotto gli occhi. Può avere ragione l'ascoltatore, ma scusami, l'ascoltatore può avere anche ragione. Ma se tu vai a vedere cosa succede nelle altre parti d'Europa, in Francia, in Spagna, forse in Germania si salvano. Fino all'altro giorno andava a teatro Macron. Quindi vuol dire che fino a quando non adesso, ti... che fino a quando non ti arriva in faccia la morte e la terapia intensiva, ragazzi, quella cos'è che ha cambiato l'opinione pubblica? Le immagini della terapia intensiva, però, ragazzi, l'opinione pubblica e il nostro atteggiamento è cambiato con quelle immagini, quelle della terapia intensiva. Il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è che noi siamo uno dei paesi con più morti. Questo, il caso Italia, è sotto gli occhi di tutti. Il caso Italia, anche perché noi li conteggiamo in un certo modo rispetto alla Francia e alla Germania, Italia, ad esempio. C'è un caso Italia. No, c'è un caso di come noi li conteggiamo. No, c'è un caso Italia di come siamo arrivati completamente impreparati. Perché non c'è un sistema europeo accettato da tutti i paesi di conteggio, Luigi, peraltro. Roma, e noi ci siamo fregati da soli. C'è un caso di pochi posti di terapia intensiva, Luigi da Roma, ragazzi, anche specialmente in Lombardia. Luigi, dimmi. Per carità. Ciao Crux. Allora, innanzitutto complimenti a Sgarbi, perché ha dimostrato comunque di essere un uomo intelligente, una persona che si rende conto che ha sbagliato, riconosce che ha sbagliato e dice: ho detto una cazzata. a difesa di Gottardo. Che non ha detto proprio che così. Non ha detto le cose che ha detto Sgarbi. Io non ho detto le cose che ha detto Sgarbi. Ancora peggio. Ancora peggio. Però vabbè. Andiamo senti avanti. L'altro. Poi un'altra cosa. Bravo, questo bravissimo. Questo professore Galli e questa professorona Gismondi, che sono due antipaticoni, hanno una carica. Soprattutto ma che c'è entra antipatico? Galli. Ma chi se ne frega che è antipatico? Se a me Galli, per esempio, a me sta simpatico. Galli ne ha dette, perché pure lui all'inizio. Sì, anche lui ha minimizzato, certo, anche lui ha minimizzato. E perché l'altra volta ha attaccato in maniera così violenta quel medico di Napoli? Perché stava mandando avanti un protocollo. No, ha detto che la paternità di quella roba lì non è dell'ospedale di Napoli, ha detto Galli. No, che la paternità di quella roba lì non è dell'ospedale di Napoli. Non si vuole prendere la paternità di quella cura, ma del protocollo di cura. Cioè, vabbè, allora che vuoi dire alla fine che cosa vuoi dire? Vabbè, non ho capito. No, vabbè, comunque pure loro si stessero un po' calmi, perché al Gismondi ha sparato un'altra cazzata pure l'altra sera. Quella sulla mutazione, del virus. Ciao. No, aspetta, Crux, che c'è? Senti, allora, come vogliamo affrontare questa cavolo di emergenza? Se mancano i mezzi basilari, le mascherine ad oggi ancora mancano. Oggi mi hanno fermato due pattuglie dei carabinieri perché ero senza mascherina. Dove cacchio la compro io le mascherine? Hai ragione, hai perfettamente ragione. Fermo qua, fermo. La zanzara. Ecco, volevo sentire anche da Capuozzo. Capuozzo, parlavamo prima del calcio, ma secondo te qual è il motivo? Se lo chiedono tutti, oggi è venuto fuori che il 90% dei morti è nelle regioni, praticamente nelle regioni del nord. Che cosa ci può essere stato di più? Qualcosa di diverso? Comportamenti, persone più ligie che quindi vanno tutte a lavorare? Come mai c'è questa esplosione al nord, secondo te? Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Affrontato anche la questione del virus cinese, il coronavirus, perché il livello di allerta è stato molto alzato. Posso, e pare che potremmo arrivare a un'emergenza globale. Siamo pronti noi in Italia? Siamo prontissimi, ci siamo costantemente, continuiamo costantemente a aggiornarci con il ministro Speranza. Dovete tener conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri, ancora più incisive. Ammazza! Da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili. Beh, si è visto, caro Conte, cioè il secondo paese per morti dopo la Cina, anzi no, forse il primo paese, l'abbiamo già superato da giorni, no, il secondo paese. Mi ero dimenticato di questo primato, poi al di là dei conti della Cina che saranno sballati. In tutto il mondo si parla del caso Italia, siamo prontissimi, 27 gennaio, siamo prontissimi, abbiamo adottato tutti i protocolli. Ci sono medici abbandonati a se stessi. Ma non potevano conoscere l'impatto di questa cosa, quello che vuoi, ma non c'è dubbio. E lo vedi dagli altri governi, vedi Boris Johnson cosa ha fatto. Johnson ha fatto una marcia indietro totale, assoluta. Per adesso l'India ha chiuso 34 stati per adesso, sì, ma non c'è il modello italiano, non esiste il modello italiano. No, questo probabilmente non c'è, ma lo stanno adottando in tutta Europa. No, però. Non il modello, gli stessi provvedimenti di chiusura che sia io che te saremmo stati in grado di fare. Chiamalo modello, non so se si chiama modello o cosa. Ma perché tu non sei in grado di chiudere, basta dire chiudere. Lo stesso criterio. Non è facile però dire chiudere. Non è facile, come si vede l'opinione pubblica. E beh, non è facile, certo. Dire alle persone dovete stare in casa per 3 settimane. Che cosa governi a fare? Non è facile. Ma non è facile fare come Israele. La libertà delle persone. Ma non è facile fare come vorrebbe fare Israele. Quello non è facile. Vabbè, quello intanto è un paese in guerra. Quello però è un paese in guerra che è abituato, ragazzi, come dire, a stare chiuso in ragazzi, casa. Non mi convincerete mai. Dagli altri il modello paesi italiano non esiste. Ma Israele, hai fatto un bel esempio, è vero. Israele è più abituato a uno stato di guerra. È abituato. Vive nelle case. Vabbè, ma che ci sono però? I bunker I in tutte modelli. Le case. Vabbè, no, allora. Ma per dirti, è vero. Israele è più abituata. L'Europa non è abituata alla guerra, a stare in casa. Maria, com'è che si chiama questa? Maria Emena? No, ma che? Mi chiamo Maria Elena Fabi. Buonasera Maria a tutti, Elena, sono Maria una Elena. Giornalista. Dimmi. Ciao, sono Maria Elena Fabi, sono una giornalista che lavora in Rai a una mattina in famiglia. E io ho chiamato perché sono veramente... Come ti chiami di cognome, scusa? Fabi, Maria Fabi. Elena Fabi, sì, tra l'altro mia mamma ti ascolta tutti i giorni. Allora, quello che non sopporto è il modo di comunicare di Conte, cioè, ma è mai possibile? Sembra che stiamo giocando, no? No, le misure restrittive non saranno prorogate fino al 31 luglio. E con che cosa dice una cosa del genere lui? Quali dati? No, non ha detto, non ha detto esattamente questo, ha detto in realtà quella è una data, diciamo, che viene indicata così, ma come termine ultimo, ma non è che c'è scritto, cioè lui dice probabilmente non arriveremo al 31 luglio, effettivamente non potrebbe dire manco questo. Sì, ma tu mi spieghi, Giuseppe, qual è la strategia di questo governo? Non c'è, non esiste, chiudere e basta. Cioè, ma perché non mettiamo, come dici tu sempre, De Luca, io sono napoletana, e viva Dio, ci vuole una persona così incisiva, ma quello invece pensa solo al consenso popolare. Cioè, ovviamente lui sta lì e deve pensare pure a dare il contentino. Però scusa, collega, scusami, contenere, hai ragione, ma contenere le persone a casa, come vedi, è difficilissimo, perché le persone, nonostante gli esperti in televisione te lo stiano ripetendo da giorni, continuano a uscire. Sì, allora, il dramma di dover dire, hai ragione. Allora, ma infatti, cosa, ma chi ha detto che l'influenza è normale? Fammi sentire, allora, fammi sentire. Qualche imbecille, guarda, lo ha detto. Io sono tornata da qualche imbecille. Qualcuno anche è presente. Mi dispiace doverlo dire, molti medici di famiglia hanno detto: guarda, è un'influenza normale. Io mi sono messa in autoquarantena quando il 15 di febbraio ero stata a Milano, sono ritornata a Roma. Mi sono messa in autoquarantena nonostante fossi andata a Milano, che sembrava un extraterrestre con la mucchina, mascherine, e c'ero andata già a Sanremo. Hai fatto bene. In questo modo. Ho fatto bene, le persone vanno informate bene. Un'altra cosa, ieri ho visto che uscivano da Palazzo Chigi la Meloni e Salvini. Allora, la Meloni a me piace molto nel modo di fare politica, allora, quindi, però cosa ha fatto? Si toccava la mascherina, se la toglieva, se la metteva, poi si toccava la faccia, si toccava gli occhi. Andrebbero dette queste cose. Se lei, il vecchietto da casa, guarda la Meloni che si toglie la mascherina, poi se la rimette, poi si mette le mani sul naso, poi si toglie la mascherina e parla senza la mascherina. Quando va al supermercato e va a fare la spesa, farà la stessa cosa, perché dice tanto la mascherina come va messa, come l'ha messa la Meloni in televisione. Cioè, noi che facciamo informazione. Ma tu stai meditando in questo periodo, come dice Conte? Stai meditando? Io voglio meditare un'altra cosa, tanto visto che tu parli di sesso, ogni tanto voglio parlarne anch'io. Sono una bella donna, sono single, ma fino a quando io dovrò essere in clausura? Perché non volevo fare la suora, sinceramente, nella mia vita. No, vabbè, qui siamo al top assoluto, ecco, ragazzi. Qui siamo in un terreno, scusami, in un terreno positivo. Allora, mi piace questo terreno, come faccio a sapere che se io non ho, diciamo, un compagno adesso in questo momento, ma se io frequento una persona, come faccio a sapere che quello non mi contagia e non contagia lui? Infatti non lo dovresti, infatti non lo puoi frequentare. Quindi rimarrò in faccia tamponare il suo compagno. Cosa? No, ma non deve far tamponare il suo compagno. Dove lo si deve far tamponare. Sì, mettiamo un mega preservativo su tutti che li copre completamente. Allora, scusami un attimo. Allora, torniamo alle basi di questa cosa prima dell'intromissione di Gottardo adesso con questa cazzata del tampone. Però sto dicendo, tu, no, Mariana, deve fare tampone. Mi stai deve dicendo fare tampone, ma il sia lei che il compagno. Ma anche in quel caso, qualsiasi approccio. Guarda, io avevo avuto un po' di febbre all'inizio quando sono tornata a Milano, il primo giorno 37,2. Quando ho detto se era possibile o meno, perché comunque la truppa è stata messa in quarantena, ma era stata Codogno il giorno dopo, mi hanno riso tutti in faccia, mi detto, ma che cavolo dici, i tamponi di che? I tamponi non vengono fatti così, cioè nessuno mi ha voluto fare il tampone, vabbè, c'è un criterio per cui fare il tampone, ma c'è gente che ha con la febbre a 40, non gli fanno il tampone. Da quant'è che stai in casa tu? Scusa, da quant'è che stai in casa? Diciamo metà febbraio, sto lavorando. Da metà febbraio sei in casa, dunque da metà febbraio sostanzialmente non hai rapporti sessuali, questo è il punto fondamentale. Ma pure da prima, però. Pure da prima, d'accordo, però da metà febbraio diciamo sei costretta in questa situazione. Beh, cosa vuoi che ti dica? Signora, ma se tu hai introdotto... mia mamma mi sta sentendo, mamma, però vabbè, sono stato di necessità. Senta, a proposito questo, di mamma, signora Maria Elena, io ho appena iniziato a seguirla su Instagram, ma la è cosa tutto come mamma l'ha fatta oppure lei è passata? Sono mai tutta da un naturale. Chirurgo estetico. No, non sono tutta mai stato naturale? Un chirurgo estetico. Complimenti. Quella è la parte naturale. Sono, complimenti. Sì, sono magra, così. Complimenti. E anche una sorella sono gemella, per che si chiama mente. Antonella, siamo due giornaliste e mamma Brave. Segue sempre la Zanzara da anni e ipovedente, quindi vi ringrazio perché essendo una persona che non vede, grazie a voi, grazie alla radio, la radio riesce comunque ad avere le informazioni su tutto. Cioè, e Gottardo è già riuscito, Gottardo è già riuscito a sapere che la signora Maria Elena trattasi una quarta naturale. Trattasi di sostanzialmente di persona con delle tette notevoli, se posso dire il così, cara Maria. Cuore della Campania. Ereditate dalla mamma, ecco, il cuore della Campania. Molto bene, molto bene. Lei come sta provvedendo in questo periodo, diciamo, alla soddisfazione sessuale personale? La metto in maniera guarda, così aulica. Sostituendo sostituisco con il cibo. Devo dire che sono molto brava a cucinare, però. Ma non ha dei sex toys? Non ho ancora ingrassato. No, non ho un robottino qualcosa? No, io preferisco, sono un po' all'antica in questo senso, preferisco più insomma la carne, le cose diciamo, naturali, la carne, proprio la carne. Questo, no. Ma nemmeno no masturbation, neanche di questa, diciamo, della scuola, che ne so. Ieri Malena ci ha detto che praticamente non ha masturbarsi da sola. Anche per no, anche quello, però poi alla fine... c'è anche bisogno di del rapporto. Sì, ho capito, però uno dal 15 febbraio ormai è un mese e mezzo, ti sarei masturbato in questo mese e mezzo, diciamolo alla mamma, ogni tanto mi masturbo, cara mamma che sei all'ascolto. Appunto, dico, ogni tanto in questo mese e mezzo purtroppo ho dovuto fare da sola, ma come molte donne chiuse in casa. Ma è lei che ha detto questa cosa? Qual è la prima cosa che farà? Qual è la prima cosa che finirà? Scusami, immagina il dramma di quelle che invece si masturbano avendo un marito a casa, quello è ancora peggio. Quello può essere però, attenzione, quello può essere però un gioco molto... Sole, senza che il marito lo sappia, quindi, perché stanno a pensare all'amante. Oddio, ma che dico! Può essere, ma sì, appena sarà finita la quarantena, Maria Elena cosa farà? Certamente non vedrà te, questo mi sembra... Fuori di bellissimi monumenti, per esempio. Mi sembra fuori discussione. È mai stata a Padova, Maria Elena? Sì. La cosa è incredibile, ma la cosa è incredibile che fa Gottardo sta trasformando questa conversazione in una sorta di tentativo di farsela. Una cosa pazzesca. Mio numero mi scrive: le consiglio di andare a vedere chi è. Vada a vedere la foto di chi è, cara collega. Ma guardate il profilo Instagram di Maria Elena, è una cosa straordinaria. Ecco, no, ma suggerisco a Maria Elena di andare a vedere il profilo di Gottardo, così si rende conto, diciamo. Naturale. Ride. Ma io, ragazzi, io vi dico solo una cosa: io non so chi è Maria Elena. Scusami se non sapevo chi fosse prima. No, Maria Elena, cioè inviata di Uno Mattina, mi sembra di capire. Maria, no? Famiglia, Elena, sì, Fabi 1. Su Instagram, Maria Elena Fabi 1, straordinaria, un'opera d'arte. Ma che cazzo ne sei? L'hai vista solo in foto? L'hai vista, cazzo? No, guarda, ti posso assicurare che sono uguale nella foto. Sono altissima perché sono 1,70 m. Venga a Padova, il grande cuore di Padova è pronto. Qualcuno sostiene che ci sono dei ritocchi molto importanti. Un esperto qui. Sostiene. Guardate anche i video, ci sono i video. E allora bisogna toccare con mano. E allora bisogna famiglia, verificare. Quindi, ragazzi, vedo qua con mano. Vedo qua le foto. Verificato con mano. Le foto che mi mandano mi sembra di dire, però, naso in faccia, qualche ritocchino c'è. Dai, ragazzi. No, ti giuro, guarda, Giuseppe. No, purtroppo. Ma non sarà tua sorella, non lo so. Sarà tua sorella. Avrà un boom di richieste di amicizia la collega adesso. Maria Elena Fabi 1, qui, ragazzi, se non c'è il ritocco, dove cazzo stiamo? Sarà il ritocco delle foto oppure il ritocco del chirurgo? Ti darò quando finirà tutta questa cosa, io ti vengo a trovare in radio, poi mi dirai se sono ritoccata o meno. Vabbè, voglio esserci anch'io. Voglio esserci anch'io. Io sono come San Tommaso. Io sono come San Tommaso. O metto la mano, oppure niente. Scusa. Vada a vedere, collega, cara collega, chi è Gottardo. Vada a vedere prima di dire di sì. Vada a vedere la foto. Mi segue. Perché mamma vi segue. Ma scusa, non ho capito bene una cosa. Non ho capito bene una cosa, caro Davide. Tu sapevi che Gottardo era un tipo così arrapato, così allupato o no? Cioè... Sì, questo se ne parlava sempre a Padova. Era molto chiacchierato per questo. Sì. Beh, certo. Ciao. Dimensioni. Ciao. Più sono brutti, più sono allupati. La Zanzara. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Madonna. Crux, senti, praticamente c'è la mia compagna che si è sempre fatta la depilazione totale dall'estetista. Adesso, per colpa insomma di questa faccenda, non ci va più, si depila solo lo stretto necessario e praticamente niente, amico mio, si è tornati agli anni 80, quando sto trombando mi pare di essere in un film porno in VHS di 30 anni fa. Bellissimo! Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e fe, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto un chiodra? L'avete capito che chi cazzo ti andava a vedere per sti capelli aggiustati in tutto? Perché se una viene in casa tua, se una viene in casa tua ed è venuta in casa mia, è venuta in casa di un'altra a fare i capelli a un'altra, ma lei capite che ti potete portare o posto da LAC, ti porto o virus corona, quel che ti dico se non capa così, o non hai capito? La soluzione non è chiudere Lucera, la soluzione è che tutti quanti insieme dobbiamo capire e quindi eliminare sta cosa. Cioè non è che possiamo fare una roba che alziamo i muri intorno a Lucera per sempre. Prima o poi sti cazzo di muri poi li dovremo aprire. O ci ammagliato per sempre per tutta la vita. E che facciamo qui? In scemo facciamo qua. E quando avuto io Omar a favore che persone dei pilati che non ci stanno qui pure perché non siete King Kong, no? E invece andare sta la strada aperta perché tu Omar i possanzi vivi o se ne hai pa? Se no te mezzo pa la razza sdraiato solo così. Cosa? E però sapere come se ne viene fuori, sapere che c'è una soluzione e non adottarla, beh, permettetemi, è proprio da fessi. Cioè io capire, vedere che nonostante, vi ricordate King Kong con i peli, cioè voglio dire, no, quella roba là che ha fatto tanto ridere, che ha fatto, e a me ha fatto pure piacere perché c'è bisogno, Dio sa se c'è bisogno di ridere, ma c'è chi veramente pensa più a quello che ad altro. Molti ci chiedono un bis del mitologico Ingegner Negri, per cui sto sviluppando una qualche simpatia, caro David, come al solito, per tutti i personaggi che passano in questa emissione, in questa emissione radiofonica. L'Ingegner Negri, sentitelo oggi, sentitelo. Cari amici, le norme diventano sempre più stringenti e sempre più difficili. Addirittura ci mandano i droni per controllare la nostra vita privata, addirittura i nostri telefoni verranno tracciati, addirittura vogliono confiscare le nostre auto, ci mandano addosso branchi di mastini urlanti che ci urlano a casa, a cuccia, via, vai a casa. Noi abbiamo un paese in cui in questo momento c'è la dittatura, perché le forze dell'ordine costringono i cittadini ad agire in una certa maniera con la forza, senza essere legittimati, legittimati dalla Costituzione che è stata violata. Se non ci chiediamo se sono legittimati a fare quello che stanno facendo, non siamo uomini, siamo servi, siamo schiavi, siamo bestie se non ce lo chiediamo, ce lo dobbiamo chiedere. Allora noi dobbiamo dire questo essenzialmente, adesso ci sarà quello che dice ma come, ma vai a vedere i morti su a Bergamo, sì, certo, andiamo a vedere i morti su a Bergamo, a Brescia, negli ospedali, andiamo a vedere esattamente di cosa sono morti, perché entrano dentro e non sanno neanche i nomi e non hanno neanche le cartelle cliniche, andiamo a vedere, vengono cremati, non sapremo mai niente, quindi ecco. Non è previsto lo stato di emergenza, non è prevista l'epidemia per cui fate quel cazzo che vi pare, è previsto solo lo stato di guerra dalla Costituzione. Poi però attacca i politici, in un altro video il mitologico Negri attacca i politici: date voi i soldi agli ospedali, vivete voi con 600 euro, vivete voi con 600 euro. Che cosa c'entra? Ma sì, ma non ha torto, possibile mai che tutti quanti si tagliano lo stipendio, si devono tagliare lo stipendio anche i politici in questo momento, si taglino lo stipendio, si decurtino lo stipendio. Dateli voi parlamentari e vivete con 600 euro, con 600 euro una tantum, come le partite IVA. Parlamentari, date tutti i vostri stipendi per gli ospedali e vivete con 600 euro una tantum, come le partite IVA. Italiani, è giunta l'ora di svegliarsi, è giunta l'ora. Noi siamo la parte sana del paese, la parte che ragiona. Non ci abbatterete, non ci abbatterete mai. Ingegnere, avanti tutta, ti giuro, questo caso no. Però io mai un deputato dovrebbe dare, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio, dimezzarsi, se lo vuole fare bene, dimezzarsi, ma perché mai dovrebbe dimezzarsi, dimezzarsi, ma tu te lo sei dimezzato lo stipendio, dimezzarsi, ma io no. Che c'entro, sono del privato, se qualcuno in questo momento, ma quello se, lavora, se si fa tutti quanti un sacrificio lo farei tranquillamente, ma che c'entra, ma capito, ma perché dovrebbe farlo? Il Parlamento è chiuso, non lavora un cazzo, non è chiuso per nulla, mi dispiace, non è chiuso oggi, se come tu sai oggi si è riunita la commissione, sempre oggi amore si è riunita la commissione bilancio, oggi si è riunita la commissione bilancio di Camera e Senato. Oggi si chiamiamo Gentilini, dai. Andate a vedere adesso la commissione bilancio. Gentilini. Chiamiamo l'ex sindaco di Treviso, lo sceriffo. Sentiamo com'è di morale, ragazzi. Uno di 90 anni, Gentilini, vai. Lucido come Gottardo. Sì. Giancarlo, come stai? Sono Cruciani. Ah, ciao, ciao. Ciao, quanto tempo che non ci sentiamo, quanto tempo? Ma ormai, caro, sono fuori da gioco io. Ma lo so, volevo sapere come stavi, fortuna, come stavi fortuna. Dentro casa, come stavi tappato in casa. No, a un dato momento mi sembra di essere tornato in guerra. Appunto, quando dicevo. C'era il coprifuoco, ma era un po' diverso perché terminato il coprifuoco ci tornava a vivere, no? Sì, certo. Adesso certo. Invece è un coprifuoco che dura 48 ore per sempre . E poi la vita fuori non è come cioè tu dici prima, è peggio della guerra addirittura. Sì, peggio della guerra, sì. Cioè perché la guerra batteriologica credo sia difficile da eliminare. La guerra a un dato momento finisce, ma questa è una guerra subdola. Tu che hai vissuto la guerra, come stai vivendo questa situazione? Peggio dal punto di vista proprio psicologico, dal punto di vista mentale? Dal punto di vista ti sta distruggendo. Sì. Proprio l'io viene graffiato e segnato. Tu esci da casa ogni tanto oppure sei uno fedele? Io vado a prendermi il giornale, porto qualche lettera in comune perché sono ancora consigliere, ma non ho nessun contatto con nessuno, ma cioè per me è peggio di una galera, sai, capito? Vabbè, figura, tu sei abituato al contatto, sono abituato a vivere in mezzo al mio popolo, hai capito? Appunto, dico. Ho un'anzianità molto, molto avanti, ma sono sempre come un balilla, hai capito? In che senso come un balilla? Balilla. Balilla. Non è bello. Avevano la carica vitale dentro, hai capito? Manganello ce l'avevano i balilla, veramente. Senti, scusami Giancarlo, se ci fosse stato, se la cosa fosse stata, diciamo, gestita tutta da lui, no? Da sua eccellenza, sarebbe stato meglio o no, secondo te? Ci avrebbe fatto qualcosa in più? Ricordati che il detto di lui era mens sana in corpore sano. E quindi hai visto che strutture, la gioventù italiana del Littorio, al mare, i monti, e quindi le colonie. Oggi siamo più mollicci, dici tu. Oggi siamo... La sanità di adesso non è più quella di allora, hai capito? Cosa dicevano i romani, puttana Eva? Che dicevano? Primum vivere deinde filosofari. Sì. Invece adesso pensavano a Marte, la Luna, l'atomica e tutto quanto, e ridursi di non avere nemmeno una mascherina in deposito, ma se siamo... Pare che l'esercito italiano aveva dei depositi di viveri che si poteva fare una guerra 3-4 anni. Ma tu non sai, te un giovanotto, non capisci un'ostia. Scusami, però da te voglio capire una cosa. Dunque, secondo te il fascismo avrebbe gestito meglio questa situazione? Questo è il punto fondamentale. Periodo fascista, la cura principale era l'uomo. Dunque ce la saremmo cavata. Sì, forse ci sarebbe stata la previsione del futuro, hai capito? Qui io ho pensato... Quale futuro? Scusami, Gentilini. Nessuno ha previsto il futuro dal punto di vista sanitario. Scusami una cosa, un'ultima cosa, Giancarlo, l'ultima cosa, ma se dovesse proseguire fino a luglio, qualcuno dice questa chiusura, tu come la vivresti? Ho sentito parlare di cianuro, di cianuro. C'è andato un momento, dovesse crollare tutto quanto? Sì. Cosa ci resta? Se crolla tutto, cioè? Ho detto i gerarchi nazisti cosa avevano sempre dentro nel taschino? La partita di cianuro. Ho fatto un esempio così, c'è un dato momento. Una cazzata classica. Ah, se l'umanità dovesse crollare. Cosa vale la pena di vivere ancora? Bah no, se l'umanità crolla. Una classica cazzata. Cioè, nel senso, se l'epidemia dilaga, meglio il cianuro. Cioè, se tu dovessi essere preso dal coronavirus. Se dovesse sparire il genere umano. Sei un sopravvissuto, cosa fai? Ma se tu dovessi prenderti... Dio non voglia, ma se ti dovesse prendere il coronavirus, Dio non voglia perché hai 90 anni, come preferiresti morire tu? Preferiresti morire con la pasticchetta? Poi sceglierei un modo di addormentarmi così, tra le tue braccia. Ciao, andato, Giancarlo, andato. Ciao, un abbraccio, ciao. Mai mollare. Ciao. Eccolo, appunto. Amico mio, come lotta ancora, comunque arrivarci a 90 anni, ci sente poco, per carità, però arrivarci come lui a 90 anni, ragazzi, ma dove devo firmare? Come lucidità, non come lucidità, ma come fisico, lucidità. Sì, ma no, ma lui è sempre stato così, è tutto, vero, lui è anche stato lucidità, così. Ma voi lascia perdere quello che pensa, comunque ragazzi, Trump ha detto recessione fa più vittime del coronavirus, riaprire il paese. Ho dato 2 settimane e valuteremo in quel momento, ma dobbiamo aprire questo paese. Signor Trump, che numero uno che è, ragazzi. Chi c'è qua? Davide dalla provincia di Roma, vai. Amico mio, finalmente. Lo sapete che c'è un sacco di gente che non resiste, non riesce a fare a meno di masturbarsi. Ci sono persone cattoliche, cioè nel senso che in questo periodo, soprattutto rinchiusi dentro casa, uno pensa magari molti singolo alla masturbazione maschile. Ne abbiamo parlato anche qui, no? E come me, per esempio. Ci sono molte persone cattoliche che insomma, no, cioè, che si rivolgono magari a dei, chiamano i preti per dire: raga, ma come faccio a sopportare questa situazione? Vabbè, Davide, dimmi allora. Bello, mi piaceva questo argomento. Comunque no, parlavo in merito di quell'animalista che ha chiamato ieri, no? Che lui ha detto a un certo punto, ha detto che i cacciatori che muoiono di coronavirus possono morire contento, bla bla bla, eccetera. Fondamentalmente è un coglione, perché anche io che mangio carne, quindi, e contribuisco alla causa carnista, se muoio mi pare un classico dell'animalismo. Ma no, lui dice io voglio che muoiano solamente i cacciatori perché procurano morte, però anche tu che collabori insomma ci vai vicino a quel capito, però fondamentalmente parliamo sempre solamente di figa e masturbazione. Vabbè, Davide, ciao. Ci sono un sacco di onanisti costretti da questa situazione in giro. Sì, buonasera padre, mi scusi se disturbo, io mi chiamo Giuseppe, lei non mi conosce, io però sa, non so chi chiamare, io ho un problema. Mi dica. Guardi, io sono rinchiuso in casa come tutti per colpa di questo maledetto coronavirus, io vivo da solo che io sto scoppiando, io sono un uomo, io devo sfogarmi, io faccio atti impuri da solo padre. 3-4 volte al giorno, io non resisto, è il diavolo. Si stacchi da quello che procura questa situazione. Ma come faccio padre, è una roba incredibile, io non resisto, io vorrei essere una persona che ha raggiunto la pace dei sensi, ma non ce la faccio. Sì che è possibile fartela, lei vive da solo? Sì, vivo da solo. Questo non è un gran aiuto, perché bisogna fare qualcos'altro, qua in casa, perché altrimenti passo il tempo, le dico, su questi siti porno, mi piacciono le cougar, le milfone, lo squirting, tutte queste cose qua, non riesco a staccarmi, padre. Non vada sul computer allora. È una roba più forte di me. Non deve prendere in mano. È che mi viene sta roba qua, non resisto, mi parte la mano. Ho capito io che è un problema. Io la ricordo nella preghiera, tanto la facciamo insieme. Sì, sì, sì. Ave o Maria, piena di grazia. Piena di grazia. Il Signore è con te. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Prega per noi peccatori. Adesso, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo. E liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. O Vergine gloriosa e benedetta. E io ti benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, amen. Sia in pace, sia in pace, dai. Arrivederci. Arrivederci, Padre, grazie, grazie, grazie. Avrà funzionato secondo voi? Bah, la preghiera, la preghiera. La preghiera per cercare di convincere, vabbè, di convincere, vabbè, no, il malcapitato a non masturbarsi. Io direi che c'è una sola parola, una sola parola, sì, una sì, sola sì, parola. Sì, sì. Voi che siete a Roma, voi che siete a Padova, vi do del voi. Voi che siete all'ascolto di questa disgraziata trasmissione, siamo qui nel bunker finché le forze e finché la legge ce lo consente a dire italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Stare a casa. Prendete il cazzo in mano.